Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia, grazie a Papere per la silenziosa compagnia, grazie al trio Mirkovic per un anticipo della loro musica. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Si confermano le repliche, mercoledì notte dopo l'ultima edizione del notiziario, si conferma la messa in rete dei testi, ci sentiamo domenica.